Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. È una fresca sera di giugno del 1920. Stoccolma è una città magica che fluttua sull'acqua con i suoi canali, gli acciottolati, i negozietti d'arte, i ponti. In una stradina tra i canali, un uomo, un regista, ha appena lasciato il set dopo una giornata intensa di riprese. E mentre cammina pensa alla sua truppa, quanto sia impegnativo dirigere gli attori. È insoddisfatto. Non riesce a ottenere dai propri interpreti quello che vuole. Ha bisogno che col pensiero e le emozioni gli attori aderiscano a un intero progetto, il suo. Un compito difficile per qualsiasi attore. Nessuno è così bravo, ma anche così duttile, da incarnare unicamente le aspirazioni, le pulsioni di chi lo dirige. Mentre riflette, il nostro uomo entra in una tabaccheria. La ragazza che gli vende le sigarette ha un viso interessante. Chissà, potrebbe essere questo il volto che parla solo come lui vuole. Ma che pazzia, pensa, non è possibile chiederlo a un attore, figuriamoci a una commessa. E questa la sua ossessione, trovare il volto e l'anima dei suoi sogni per portarli sulle scene. Mentre ormai è calata la notte, l'uomo rientra a casa. Nella sua mente quel viso di ragazza ha lasciato un'impronta. Ma ora lui torna alla realtà. Scorre le pagine di un giornale e non lo sorprende vedere la sua foto sotto un titolo a tutta pagina. È lui la star del momento in Svezia. Il suo nome è Mauritz Stiller. Mauritz Stiller. Al suo arrivo a Stoccolma, molti anni prima, il destino gli ha messo a fianco una guida d'eccezione nel mondo dello spettacolo. Il drammaturgo svedese August Strindberg, che lo ha guidato nella recitazione e poi nella direzione teatrale. Stiller ricorda ancora quando da aiuto regista ha portato in scena La signorina Julie, il capolavoro che ha reso Strindberg famoso in tutto il mondo. Una pièce intensa, scandalosa, dove il confronto tra classi sociali si tinge di note drammatiche. Ecco, comincia la canzone. Che cosa ha fatto? Quello che hanno fatto tante prima di lei. Io adesso mi disprezza. E io scendo sempre più. E scenda fino al mio livello. Canaglia. La morte di Strindberg nel 1912 impone a Stiller la forza di compiere una scelta coraggiosa. Darsi alla regia cinematografica con un impegno tale da farlo diventare uno dei nomi di punta della casa di produzione nazionale, la Svensk Film Industry. Nel 1923 ormai è al colmo della celebrità e può puntare a progetti decisamente ambiziosi come la trasposizione filmica della saga di Gösta Berling della scrittrice Selma Lagerlöf, premio Nobel per la letteratura. È la storia di un pastore protestante che a causa dell'alcolismo rinuncia al suo ministero e per gli intrighi dell'anziana contessa Marta Doona alle nozze. Ma l'uomo viene infine riscattato dall'amore della giovane Elizabeth, segretamente innamorata di lui. È proprio la parte di Elizabeth a renderlo nervoso. Il film poggia tutto sulla coprotagonista che dovrà avere il volto dei suoi sogni, quello capace di dar vita a ogni sua aspirazione. E lui quel volto l'ha già visto almeno una volta, ma non sa dove e lo cerca ancora nei bar, nelle tabaccherie, in ogni donna che incrocia. Trovarlo è diventata una vera ossessione. Mauritz Stiller è alle prese con il film capolavoro della sua carriera, la saga di Gösta Berling. Trovare il volto del personaggio chiave è diventato una vera ossessione, come racconta nelle sue memorie l'attore svedese Hugo Borg, che conosce Stiller molto bene. A Stoccolma lo sapevano tutti che Stiller cercava una sorta di bella marionetta attraverso cui esprimere se stesso come artista. Per anni aveva cercato una donna, quella che sarebbe stata la più grande star del mondo. Una sera, mentre passeggiava, si era fermato da un tabaccaio per comprare le sue sigarette preferite. Era come sempre distratto, ma qualcosa gli era scattato nella mente guardando la ragazza che lo serviva. Poi però era uscito e tornato a casa. Solo allora aveva capito. Era lei quella che aveva sempre cercato, ma non era più in grado di ricordare l'indirizzo. Ed era stato mesi a ripercorrere strade e stradine, cercando in ogni tabaccheria. Mentre sono ancora in corso i provini per la parte della contessa Elizabeth Dona, Stiller viene invitato come ospite d'onore a un saggio dell'Accademia Regia di Arte Drammatica, la scuola teatrale pubblica più prestigiosa di Stoccolma. È lì, sul palco, in mezzo a un gruppo di aspiranti attrici neanche maggiorenni, che una ragazza attrae la sua attenzione più delle altre. Come ricorda ancora Hugo Borg, è come se il regista si trovasse davanti a un'apparizione. Improvvisamente è arrivata una ragazza. Recitava in un ruolo minore, ma Stiller non riusciva a star fermo sulla poltrona per l'agitazione, perché quello era il volto che lo aveva ossessionato per mesi. Stiller la riconosce. È lei, la commessa del tabaccaio incontrata tempo prima. E ora è qui, dunque sa perfino recitare. Ci vuole un po' al regista per ritrovare la calma. Quando prende a osservarla con occhi più distaccati, si accorge che è graziosa, abbastanza brava, niente di più. Ma è il suo sguardo, ancora una volta, ad avere qualcosa di particolare, intenso, ma è come se la sua forza non osasse mostrarsi del tutto. Stiller si scopre a immaginarla da dietro l'obiettivo e nella sua mente si fa strada il pensiero più azzardato. Quello potrebbe diventare il volto della sua Elizabeth. Terminato il saggio, in mezzo allo stupore delle insegnanti, Stiller chiede di visionare la scheda di questa studentessa. Nome: Greta Lovisa Gustafsson. Altezza: 1,72 m. Occhi azzurri, capelli biondo scuro. Data e luogo di nascita: 18 settembre 1905, Stoccolma. Figlia di Anna Lovisa Carlsson, contadina, e di Carl Alfred Gustafsson, netturbino. Curriculum di studi: istruzione interrotta all'età di 14 anni causa decesso del padre. Lavora per aiutare la famiglia. Occupazioni: commessa presso un barbiere e una tabaccheria. Commessa e modella per i grandi magazzini pub di Stoccolma, per foto e filmati pubblicitari. Provino in accademia agosto 1922. Commento della commissione: idonea, ammessa. Nota a margine: molto emotiva, al termine della prova la candidata non saluta la commissione e fugge dal palco. Quando le insegnanti comunicano alla giovane che il grande Stiller l'ha convocata per un provino, la ragazza si presenta sul set con un misto di emozione e curiosità. Presto però le appare chiaro che lo studio accademico non l'ha preparata a questa prova. Ha lavorato sulla memoria, imparato battute e dialoghi, ha perfezionato la dizione e l'uso della voce, ma qui è tutto diverso. Sentimenti, drammi, passione si giocano sull'espressività e non sull'intonazione. È la magia del viso la chiave, come diceva Norma Desmond, immaginaria regina del muto nel film Il viale del tramonto. Straordinaria, non è vero? E niente dialoghi. A noi non occorrevano i dialoghi, bastava il volto. Greta si concentra, prova. Mentre la cinepresa impietosamente le punta addosso l'obiettivo, deve recitare la parte di una donna malata. Stiller non è soddisfatto. Mr. Stiller ha aspettato pochi istanti e poi ha detto: «Mio Dio, ma non sei capace di sembrare malata? Ma lo sai almeno cosa vuol dire malata?» Alla fine la giovane pensa di non avere retto la prova, ma non è così. Stiller ha avuto la conferma che cercava. Questa ragazza possiede davvero la forza espressiva che lui aveva intuito. Una forza che per rivelarsi aveva bisogno dell'obiettivo e quindi non c'è bisogno d'altro per decidere cosa sarà di lei. Reciterà in questo film, e non solo, lui ne farà una regina dello schermo con un nuovo nome che il mondo non dimenticherà. Ricorda che nella terra dei suoi avi, l'Ungheria, c'era un grande re, Gabor Bethlen. E quel nome gli suggerisce qualcosa. Garbo. Si chiamerà Greta Garbo. Greta Garbo. Così alla fine Stiller mi ha dato la parte della contessa Elizabeth Dona in Gösta Berling. Avevo la parte migliore addirittura nel mio primo film. Prima di iniziare le riprese da autentico Pigmalione, Stiller imprime alla sua pupilla una totale metamorfosi. La giovane è sportiva, ha un fisico pieno ma tonico, basta poco ed è perfetto. Quindi come prima cosa Greta deve dimagrire anche a costo di fare sacrifici e di questi si ricorda bene la sua compagna d'accademia Mimi Pollack. Greta non era snella come la si vede nella saga di Gösta Berling, anzi era piuttosto paffuta e Stiller le ha detto che per avere la parte doveva perdere peso. Le diceva: in America un'attrice non oserebbe mai essere grassa come te. Così lei si è messa a mangiare solo spinaci e questo non le piaceva per niente, diventava matta. Non so quanti chili ha perso, ma il bello è che è rimasta snella anche quando ha ricominciato a mangiare normalmente. Ora il lavoro passa ai gesti e al viso. Stiller vuole che l'espressività di Greta, che è già un dono di natura, raggiunga un equilibrio perfetto fra intensità e misura. Più che regista, Stiller si sente uno scultore. Greta è duttile nelle sue mani. Il rapporto tra loro è ogni giorno più intenso, spesso burrascoso, una simbiosi tra amore e odio. Le riprese di Gösta Berling durano 6 mesi. Per la giovane attrice il tempo di una metamorfosi, per lui è la visione di un sogno che si avvera. Il destino sembra averlo messo sulla strada di un interprete capace di dare forma a ogni sfumatura del suo pensiero e anche di incarnare quell'immagine di donna che lui aveva sempre voluto portare sugli schermi, come racconta lo scrittore e biografo John Bainbridge. Stiller aveva un'immagine mentale della donna perfetta, una donna che non fosse solo bella e sensuale, ma anche spirituale, mistica. E questa donna lui l'avrebbe resa una grande star mondiale. Il film esce nel 1924 e si conferma un capolavoro. Nel promuoverlo all'estero, il regista ha l'occasione di viaggiare e stringere alleanze. Sogna in grande. Vuole creare una rete di produzione europea. E quando presenta la pellicola a Berlino, porta la sua attrice con sé. Questa esperienza è un sogno. La città li accoglie in un abbraccio che lei non scorderà mai più. Che inizio meraviglioso. Berlino con noi è stata splendida. Stiller in Europa ha sempre fatto cose grandissime e tutti correvano a vedere i suoi film, perché lui è un maestro. A Berlino siamo saliti sul palco, abbiamo ricevuto i fiori e tutti hanno fatto in modo di rendere questi nostri momenti veramente speciali. I tedeschi sono fantastici, non osano nemmeno sfiorarti, ma senti che ti abbracciano, sempre. Stiller si adopera per la sua pupilla. La fa scritturare con un ottimo cachet dal regista tedesco Georg Pabst per il film espressionista La via senza gioia, nella parte di una giovane che rischia la prostituzione a causa della povertà. Pabst è entusiasta, vorrebbe lavorare ancora con Greta, ma Stiller si oppone. Ha altre ambizioni per sé e per la sua attrice rivelazione, ovvero un film che sarà girato da lì a poco a Costantinopoli, l'odierna Istanbul. Il progetto, tuttavia, salta per motivi di budget, ma non importa. Sono di nuovo attesi a Berlino per vedere un uomo importantissimo, un americano. È Lewis B. Mayer, che proprio ora sta creando con alcuni soci un'imponente casa di produzione in California, la Metro-Goldwyn-Mayer. Stiller lo invita a vedere la saga di Gösta Berling e Mayer rimane inchiodato alla poltrona. Riconosce subito una regia pregevole, ma ancora di più, come ci racconta suo nipote Daniel Selznick, è affascinato dal volto di questa sconosciuta Miss Garbo. Nel momento in cui mio nonno ha visto la Garbo sullo schermo, se n'è innamorato. E anche Stiller gli è piaciuto, appena si sono incontrati. Ma la cosa che saltava di più all'occhio era quanto il regista fosse protettivo verso di lei. Mio nonno avrebbe voluto diventare la persona più importante nella vita della Garbo, ma questo non era possibile perché c'era Stiller. Mayer lo capisce subito. Questa coppia può dare moltissimo al cinema americano. E allora la decisione viene presa all'istante. Mauritz Stiller e la sua scoperta, Greta Garbo, devono prepararsi a salire su una nave con destinazione America. America! America! Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati abbiamo conosciuto a Stoccolma il regista Mauritz Stiller, che nel 1924, per il suo film capolavoro La saga di Gösta Berling, ha portato sulle scene un'autentica rivelazione, la giovanissima Greta Garbo, che ha forgiato per renderla l'attrice dei suoi sogni. È il luglio del 1925 e Greta, neanche ventenne, è con Stiller sul ponte di una nave che ha attraversato l'Atlantico in direzione America. Il loro viaggio è stato voluto dal produttore Louis B. Mayer, fondatore della Metro-Goldwyn-Mayer, che hanno conosciuto a Berlino. A quanto pare avranno un grande futuro assieme a lui, a Hollywood. Appena scesi dalla scaletta nel porto di New York, attrice e regista sono accolti da un fotografo e un reporter mandati dalla produzione. Greta si mette in posa, si sente già una diva americana. Con l'aiuto di Stiller, che traduce alla belle meglio, risponde alle domande dei reporter e non perde occasione per rendere omaggio all'uomo che l'ha scoperta e lanciata. L'attrice Karen Morley ricorda bene questa prima e rara intervista alla giovane svedese. Quando è arrivata in questo paese, un reporter ha chiesto a Greta se si sarebbe mai sposata. E lei ha risposto che no. Lei sarebbe sempre stata con Stiller. Dopo due mesi nella torrida New York, finalmente il 10 settembre si spostano a Los Angeles. Quando giunge agli studios, Greta è colta da un misto di fascinazione e shock. Gira fra gli edifici immensi della produzione, tra una moltitudine di gente nuova, registi, attori e squadre di tecnici, e si chiede cosa ne è dei set europei, dove tutti si conoscono e dove il suo Maurizio è un mito. Comprende subito di trovarsi in una fredda, gigantesca macchina dei sogni e si sente persa. La sua tensione si allenta quando incontra Hugo Borg, uno svedese che come lei ha recitato in teatro a Stoccolma e ora è in America con la speranza di fare cinema. Alla MGM lo hanno preso su consiglio del console svedese, che assicura sulla sua cultura. Forse lo faranno recitare, ma intanto può fare da traduttore ai due nuovi arrivati. È lui stesso a raccontarlo nelle memorie Vita privata di Greta Garbo, dedicato alla persona più straordinaria che abbia mai incontrato. Di recente la Metro-Goldwyn-Mayer aveva fatto arrivare una nuova attrice svedese di nome Greta Garbo e con lei c'era il grande regista Maurits Stiller. Poiché la Garbo non parlava inglese, gli studios le offrirono i servizi di un galantuomo raffinato e istruito che non solo le facesse da interprete, ma che avesse il tatto e la gentilezza necessari per guidarla fra le trappole di Hollywood e renderle più familiari i costumi americani. Hugo traduce volentieri per Greta, ma non se la sente di dirle proprio tutto, cioè che dietro le spalle qualcuno si prende già gioco di lei. Sarà alta, ma è quasi diafana, non dice nulla. Come pensa di sfondare? Ma le perplessità iniziano a svanire al momento del provino. Proprio in quel momento, il destino affianca a Greta l'operatore di ripresa danese Henrik Sartoff, inventore di lenti particolarissime, capaci di esaltare ancora di più la luminosità del volto. Stiller dirige la scena. Le lenti di Sartoff fanno la loro parte. Ma l'ingrediente essenziale è l'intensità che si sprigiona dal viso di Greta nella sorpresa generale, come ricorda proprio Hugo Borg. Prima che le riprese iniziassero, anche a me Greta era apparsa un tipo scialbo, un po' insignificante. Ma appena la macchina da presa ha iniziato a girare, è come se dal suo viso emanasse una luce speciale, un potere strano che ti dominava. E quando la cinepresa si è spenta, è sparito. È una cosa che sarebbe successa sempre, ma questo l'ho imparato in seguito. La MGM decide. Miss Garbo è pronta per il suo primo film americano, Il Torrente, tratto da un romanzo di Blasco Ibáñez, un autore famoso a Hollywood per aver scritto Sangue e Arena, interpretato da Rodolfo Valentino. Qui la storia narra dell'amore di una ragazza umile per un rampollo dell'alta società. Lei, per riscattarsi, diventa una cantante di successo, ma viene lo stesso abbandonata dal suo uomo che non vuole rinunciare alla carriera politica. È un debutto lusinghiero per Greta. Sarà sul set accanto al bellissimo Ricardo Cortés. Ma quando la MGM comunica che la regia non è affidata a Stiller, bensì allo statunitense Montabel, la felicità si tramuta in panico. Greta si è avvicinata a questo film come se fosse la sedia elettrica. senza la guida di Stiller era persa. Non aveva ancora abbastanza fiducia in sé da reggersi sulle sue gambe e mano a mano che il primo Chuck si avvicinava ho cominciato a temere che crollasse. Mi supplicava: «Ugo, Ugo, fai qualcosa. Fa che mi diano Maurits. Perché non vogliono che lavori con lui?» Il grido tiene risposta. Stiller corre a rassicurare Greta e le promette che sarà comunque con lei in disparte, ma pronto a consigliarla. Il 21 febbraio del 1926 la pellicola esce nelle sale e rivela la nascita di un'attrice senza eguali nel cinema americano, dove abbondano grandi vamp o false ingenue. La rivista Variety sentenzia: «Questa Miss Garbo ha tutto, aspetto, recitazione e una grande personalità». La produzione pensa subito di darle un altro film, finalmente con la regia di Stiller. Il titolo è La Tentatrice. Greta e il suo regista corrono da Meyer spiegando che questa parte non è per lei. Ha iniziato a 18 anni con un personaggio letterario delicato e romantico, sperava di fare ben altro qui in America. Ma l'epoca del romanticismo è ormai al tramonto nel cinema americano. Il pubblico vuole emozioni forti e una nuova immagine femminile, tutta giocata sulla seduzione. E poiché Greta ha firmato un contratto, deve piegarsi alle decisioni della MGM. Sempre di più, la giovane si sente stritolare tra gli ingranaggi di una macchina che non si arresta nemmeno quando una notizia tragica giunge dalla Svezia. Sua sorella Alva è morta improvvisamente. L'unica consolazione per Greta è la presenza di Stiller, ma presto diventa chiaro che c'è un problema e Hugo Borg, sempre presente sui set, ci spiega il perché. Stiller in Svezia era considerato un dio. Scriveva lui le sceneggiature, supervisionava la produzione, si occupava di tutti i dettagli. Ha cercato di fare lo stesso in America, ma Meyer non era d'accordo. Quindi, quando Stiller ha rifiutato di avere attorno un supervisore o l'assistente di direzione, Meyer ha temuto di aver fatto un errore e gli ha tolto la regia del film. La direzione della Tentatrice passa allo statunitense Fred Niblo, che secondo Greta non ha certo il polso di Stiller. Ancora una volta si sente mancare la terra sotto i piedi. Dopo questo episodio, ben difficilmente potrà riavere accanto il suo Maurits. Alla MGM già si parla di licenziarlo definitivamente, forse lo prendono alla Paramount. E allora anche lei pensa di lasciare tutto. Queste ultime settimane l'hanno travolta. La morte di sua sorella le ha creato dentro una voragine e, malgrado abbia successo, mette in dubbio il proprio talento. Ha nostalgia di casa e, come scrive ai suoi amici in Svezia, si sente distrutta. Ormai la vita mi fa paura. È come se mi avessero strappato qualcosa da dentro. Sto male e sono così stanca di tutto. L'unica cosa che vorrei è scappare. Per l'ultima volta è Stiller a riportare un'ombra di serenità nell'animo di Greta. Malgrado sappia di aver perso la sua più grande chance di sfondare qui in America, non vuole che per colpa sua la stessa sorte tocchi alla sua attrice, quella che lui stesso ha creato per il successo. Farebbe qualunque cosa per rassicurarla, ma non può più recarsi sul set dove lavora e quindi pensa a una soluzione per salvarle il film. Coraggio, Greta. Questa per te è una grande occasione. Non puoi lasciare tutto. Piuttosto faremo le prove di sera, di notte, soltanto noi due. Funziona. Greta è stata insuperabile e il film un nuovo successo che va subito sfruttato. La prossima pellicola ha un titolo ancora più esplicito, La carne e il diavolo, un melodramma che si svolge in un principato del nord Europa, dove la fatale Felicitas von Raden induce l'amante a uccidere in duello il marito, ma poi sposa un terzo uomo e infine muore sui ghiacci. Per la MGM è la storia giusta per affiancare una giovane affascinante e di successo a un attore promettente, John Gilbert, che ci viene presentato da sua figlia, Leatrice Fountain. John Gilbert era una stella nascente. Aveva una lunga esperienza nel cinema perché recitava da quando era molto giovane, ma nel tempo era diventato un grande rivale di Rodolfo Valentino. Piaceva a tutti, era genuino, vivace, elegante e anche divertente. Stava diventando popolarissimo perché era assolutamente romantico, ma in un modo nuovo, mai visto prima. Quando esce, nel dicembre del 1926, La carne e il diavolo ottiene un immenso successo di botteghino. Il film è scandaloso, al limite del sacrilego, per una scena in cui la femme fatale Felicitas, durante la comunione, fa ruotare il calice che le porge il sacerdote per trovarvi la traccia delle labbra dell'amante. Ma non è solo questo a chiamare in sala il pubblico. Una campagna stampa orchestrata a dovere ha avvertito i fan che le scene d'amore sono autentiche. La bella Garbo e l'audace Gilbert sono una coppia anche nella vita. È vero, per Greta finalmente è arrivato un amore travolgente come quello dei suoi film. Stiller è felice per la sua pupilla, ma già intravede un'ombra a offuscare la serenità di Greta e per questo lascia all'amico Borg un ultimo messaggio dedicato a lei. Borg, dille che si ricordi sempre quello che le ho insegnato, di non permettere mai che la vita la ferisca. Stiller se ne va. Malgrado tre pellicole prodotte con la Paramount, continua a sognare l'Europa e forse chissà un altro film capolavoro. Nel 1927, dopo nemmeno 2 anni dal suo arrivo, ritorna in Svezia, lasciandosi dietro la sua attrice, che come lui sognava, ha un nome noto in tutto il mondo. La Garbo. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo a Hollywood, nel 1927. L'America celebra la sua nuova star, Greta Garbo, scoperta appena 18enne dal regista svedese Maurits Stiller. Il produttore Louis B. Mayer li ha voluti entrambi a Los Angeles e ha fatto di Greta la diva di punta della Metro-Goldwyn-Mayer. Stiller, al contrario, non ha saputo adattarsi alla produzione nello stile americano e per questo sta tornando in Svezia, lasciando dietro di sé la sua pupilla che qui in America ha trovato la gloria ma anche l'amore tra le braccia dell'attore John Gilbert. Gilbert si prende il ruolo di mentore per Greta, vuole accompagnarla da qui in avanti nel grande e difficile mondo del cinema. È lui a ottenere, grazie alla sua influenza, che al contratto dell'attrice si aggiunga una clausola essenziale, il set chiuso, una cosa inaudita a Hollywood. Ma Greta è terribilmente timida e riesce a lavorare solo alla presenza della cinepresa e del regista, nessun altro. La MGM, sfruttando la sua storia d'amore con Gilbert, prepara subito un altro film, il dramma di Anna Karenina e del conte Vronsky, ribattezzato per l'occasione Love. Davanti alle telecamere, Greta e John sono due amanti appassionati reali e il pubblico esulta. Ma già durante le riprese del film successivo, Orchidea selvaggia, la giovane si allontana dal suo amante, come spiega Leatrice Fountain. Alla fine del film non so quanto rimanesse della loro storia, salvo il grande amore di mio padre per lei. Greta è sempre stata una persona estremamente indipendente e non le era facile donarsi a qualcuno totalmente. Per me il problema è che non ha mai sentito di poterlo fare davvero. Malgrado l'insistenza di Gilbert, Greta rifiuta di sposarlo e infine lo lascia. Sente che John ama una donna che in realtà è irreale, la Garbo, e realizza che sempre più il suo mito la sovrasta. Ricorda con nostalgia che con Stiller tutto era diverso. L'ha modellata come attrice, è vero, ma in privato l'ha sempre presa per quello che è, semplice e istintiva. Borg, dicono che sono innamorata di Maurits, non è così? Non è vero, non in quel senso. In fondo credo di non essere mai stata davvero importante per nessun uomo, forse nemmeno per lui. Anche se per me sarà sempre l'uomo più grande che esiste. Mi hai visto quando stavo seduta sulle sue ginocchia e ci fumavamo una sigaretta e magari lui mi stringeva come una bambina. Non è amore, è perché qualche volta ho paura e allora stavo bene solo tra le sue braccia. Il mondo crolla quando dalla Svezia giunge una notizia scioccante. Il 18 novembre Stiller è morto per una grave malattia respiratoria. Aveva una fotografia in mano, scattata da Arnold Gente, il ritratto di Greta. E mentre a Los Angeles sono in corso le riprese di Orchidea selvaggia, Greta corre da Louis Mayer. Mr. Mayer, non posso andare avanti. Se recito ora, sullo schermo ci sarebbe qualcosa di morto. Ma ancora una volta, la produzione è implacabile. E allora lei sceglie, da questo momento protegge se stessa da tutto e da tutti. Sorprendentemente, questa decisione fa nascere un'idea. Sfruttare la riservatezza di Greta come una chance per dare al suo mito un alone di mistero. La splendida Garbo, il sogno erotico di ogni americano, diventa ancora più irraggiungibile. Su questa base viene siglato un contratto, niente più interviste. La produzione avrà la sua divina sfinge, misteriosa e muta, e Greta, finalmente libera, non parlerà della sua vita mai più. Sono nata e cresciuta, e ho vissuto, come tutti. Perché parlare di me? Facciamo tutti le stesse cose, solo in modo un po' diverso. Andiamo a scuola, impariamo. Talvolta non ci comportiamo bene, altre sì. Troviamo il lavoro della nostra vita e lo facciamo. È la storia di tutti, no? Per me una persona non dovrebbe giudicarne un'altra e parlare di lei. Non è la sua vita quella di cui sta parlando. Anche senza interviste, la Garbo è protagonista del mondo patinato. Interi servizi sono dedicati solo a lei. Come una bambola duttile, diventa suggestiva in eleganti abiti fasciati, così come in pantaloni. Il suo fisico da modella dà ad ogni mise un tocco di raffinatezza. La sua presenza sui magazine è voluta dalla MGM sull'onda del nuovo boom, la passione per la moda, che fa delle star del cinema i nuovi testimonial del glamour. Nel 1929 il cinema sta per affrontare una rivoluzione, il sonoro. Alla MGM è il panico. Gli spettatori scoprono che i protagonisti dello schermo non hanno voci seducenti come i loro personaggi e per la prima volta ridono di loro, talmente tanto da mandarne in frantumi le carriere. È la fine di un'epoca, un passaggio drammatico che porta davvero molti divi, come l'immaginaria regina del muto Norma Desmond, sul viale del tramonto. Avevano degli idoli e li hanno frantumati. I Fairbanks, i Gilbert, Rudy Valentino. Che cosa c'è restato? Il vuoto assoluto. La MGM tutela il successo della Garbo il più a lungo possibile e la porta al debutto nel sonoro solo nel 1930. È un debutto decisivo, per cui occorre il soggetto adatto e un ruolo che giustifichi l'accento esotico dell'attrice. Viene scelto di adattare un romanzo che nel 1920 ha fruttato il premio Pulitzer allo scrittore Eugene O'Neill. È Anna Christie, storia di un'immigrata svedese dal passato oscuro, divisa tra l'amore per suo padre e quello per il marinaio Matt Burke. Seduti in platea, gli spettatori trattengono il fiato quando all'inizio del film la porta in un bar si apre e Anna entra, stanca del viaggio, lascia cadere la valigia, siede al tavolino e finalmente con la voce di Greta rivolge al barista queste poche parole. Un whisky con ginger ale a parte e non essere avaro, baby. L'interpretazione di Anna Christie merita una nomination all'Oscar, ma il premio più grande lo assegna il pubblico quando plaude la voce della Garbo. I rotocalchi titolano a caratteri cubitali «La Garbo parla». E quando nel film del 1932 Grand Hotel la ballerina russa Madame Grusinskaya reclama con voce stanca e drammatica il suo desiderio di solitudine, al pubblico pare che per la prima volta sia davvero la Garbo a parlare di sé. I just want to be alone. Battute che celebrano il mito ma non rispecchiano la verità. Greta aveva ragione. Spesso quello che diceva non veniva inteso bene e il suo inglese incerto non l'ha mai aiutata. Non ho mai detto voglio stare sola, ma voglio essere lasciata in pace. È questa la differenza. Greta tra i colleghi è una professionista stimata. Ha un compagno di lavoro prezioso, l'operatore William Daniels, con cui collabora in molte pellicole. Fin da giovanissima ha dimostrato un rapporto istintivo con le luci del set e questo aiuta Daniels a esaltarla in ogni angolatura, nelle scene più passionali, come nei suoi intensissimi primi piani. In lei le emozioni sembrano parlare dal fondo dell'anima, senza bisogno di parole. E questo dà alle riprese un effetto unico. Lo sapeva Stiller e lo ricorda dopo 4 film girati assieme il regista Clarence Brown. Ho imparato con il tempo che malgrado non fossi del tutto soddisfatto della scena, anche dopo 2, 3 o 4 volte, alla fine non dovevo più preoccuparmi. Perché quando la stessa scena andava sullo schermo, appariva qualcosa che non potevo vedere stando dietro alla cinepresa, qualcosa dietro agli occhi di Greta, capace di raccontare tutto e di moltiplicare l'effetto delle riprese. Ecco, quello era il tipico effetto Garbo, qualcosa che aveva soltanto lei e nessun altro. Nel 1939, dopo ben 24 pellicole sentimentali, il regista Ernst Lubitsch intuisce che la Garbo può tentare la commedia e le propone di calarsi negli insoliti panni di un ispettore russo. Sarà l'integerrima Ninochka, incaricata dal suo governo di sorvegliare 3 suoi agenti in missione a Parigi. Ma la bella russa viene piano piano conquistata dai piaceri della vita occidentale per mano dell'affascinante conte Leon, In un'escalation di situazioni comiche, per la prima volta il pubblico vede il volto mistico della sua sfinge preferita allargarsi in un sorriso e al culmine della scena la Garbo ride. È una novità assoluta per i fan, ma solo chi la conosce da vicino sa che questa è la vera Greta, spontanea, spiritosa, comica. Lo ricorda con affetto Gray Risefield, la nipote di zia Garbo. Per me non c'è dubbio. Questo film è quanto di più rassomigliante a quello che era mia zia. Ninochka era davvero lei nella vita reale. Una donna molto, molto divertente. Siamo sul volgere degli anni 40. Il mondo sta cambiando, i venti che spirano sono quelli di guerra. Greta sceglie di allontanarsi dalle scene con l'intenzione di ritornare quando ci sarà la pace. Ma quando nel 1949 tenta un provino, viene scartata. E allora decide, si ritira per sempre. Poco importa che l'anno dopo il Guinness World Record la nomini la donna più bella del mondo e nel 1954 l'Oscar Academy le tributi un premio alla carriera. La Garbo non c'è più. Sceglie di vivere a New York, in una bellissima casa nell'East Riverside. Le sue finestre sono affacciate sul fiume Hudson e Greta ritrova il rumore familiare dell'acqua che sentiva nella sua Stoccolma. Ama fare lunghe passeggiate, curiosare tra i mercatini dell'antiquariato, cerca soprattutto la compagnia degli amici e della famiglia. Si è davvero scordata del mondo, ma è il mondo a non dimenticare lei e questa scena narrata da suo nipote Donald Risefield lo dimostra bene. Nel tempo c'è stata una lunga fila di aspiranti che venivano a Hollywood a fare i cast per diventare la nuova Garbo. E un giorno eravamo nell'appartamento di mia zia, guardavamo la televisione con lei e c'era qualcuno che pretendeva di essere la futura Garbo. E lei ci ha detto: «Sapete, non ci sarà mai un'altra Garbo. Io sono diversa dentro». Lo aveva capito un uomo incontrato a Stoccolma tanti anni prima. L'uomo che le ha cambiato la vita e a cui ha voluto dedicare poche righe piene di affetto, firmate di suo pugno e lasciate al mondo, per rivelare alla fine il suo segreto di sfinge. Maurizio Stiller, il primo a credere in me, a darmi un ruolo e farmi muovere i primi passi nel mondo del cinema. Il primo a darmi fiducia in me stessa, quello che mi ha guidato, che è stato per me l'insegnante migliore, il più gentile e comprensivo, e senza imporre ha lasciato emergere da me ogni cosa. E tutto questo nella saga di Gösta Berling, che era prima di tutto e in ogni senso il suo film. You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far, you're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it cold, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you.